Perfetta Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Due strade trovai nel bosco e scelsi quella meno battuta. Io ho piena consapevolezza che per quello che riguarda personalmente, anche la mia esperienza personale, è sicuramente più difficile scegliere questa strada che non aspettare magari un lento logoramento o più semplicemente che si compiano gli atti, come qualcuno anche di caro e di amico mi ha suggerito nella scorsa direzione. Ci teniamo tutti ad essere accettati, ma dovete credere che i vostri pensieri siano unici e vostri, anche se ad altri sembrano strani e impopolari, anche se il gregge può dire non è bene. Come ha detto Frost, due strade trovai nel bosco e io scelsi quella meno battuta. Ed è per questo che sono diverso. Insomma, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, Renzi ha preso l'attimo fuggente, ha colto l'attimo fuggente. Secondo voi ha fatto bene, ha fatto male, sarà rischioso? Già ci sono anche critiche, plausi appunto da diciamo media e osservatori internazionali, ma anche qualche critica, poi ve ne parlerò, qualcuna anche insomma abbastanza inquietante. Insomma, è avvenuta questo cambio di scenario, più o meno si sta compiendo, nel senso che oggi Renzi in direzione PD, pochi minuti, una manciata di minuti, ha liquidato Letta e ha detto grazie tante Enrico, però adesso si deve cambiare passo, e Letta quindi ha detto che domani si andrà a rimettere il suo mandato al Quirinale nelle mani di Napolitano. Dunque il passo è stato compiuto, che cosa ne pensate? Siete soddisfatti? Quali sono le vostre prime impressioni, le vostre prime sensazioni? Ci sono come sempre qui a Effetto Notte due canali per i vostri commenti, c'è la pagina Facebook di Effetto Notte e poi i messaggi, ai quali vi prego però lì di essere brevi e chiari, al 349-238-6666. E poi possiamo dire che a fronte diciamo di due personalità che si sono prese a pesci in faccia, anche se in modo così apparentemente elegante, arriva un abbraccio oggi di un certo impatto, anche questo da un'altra parte del mondo. L'abbraccio alle Olimpiadi di Sochi tra lo zar Putin e una pattinatrice gay. Questo per rispondere, Putin, evidentemente, alle critiche del mondo sulle leggi anti-omosessuali. Ho visto qualche ascoltatore che mi ha scritto solo ipocrisia russa, tuttavia però insomma diciamo che una certa efficacia mediatica, chissà che anche non politica e culturale ce l'abbia. Ma adesso, al di là di queste lucubrazioni, direi di partire, prima poi di avere i vari ospiti e di leggere la giornata di oggi, di raccontarla in sintesi. Nuovo governo dunque, Letta cede, domani si dimette, Renzi verso Palazzo Chigi con il via libera del PD. Tra le reazioni, Forza Italia e 5 Stelle dicono la crisi si vota in Parlamento, scelta civica, sia Renzi ha fatto chiarezza. Crisi, il presidente di Confindustria, Squinzi, dice pesante disagio delle imprese da più di 5 anni e da Letta buona analisi ma non le risposte attese. Eutanasia, il Parlamento belga decide di estenderla ai minori. La vicenda dei Marò, il segretario generale dell'ONU chiede che India e Italia trovino un accordo. Olimpiadi di Sochi, Arianna Fontana conquista la medaglia d'argento nello short track. E partiamo quindi da questa svolta nella politica italiana, nel senso almeno per il momento di cambio di vertice. Oggi c'è stata la direzione del PD, come vi dicevo, pare che il presidente del Consiglio Letta sia stato liquidato piuttosto sollecitamente. Elisabetta Fiorito, tu che hai seguito da Roma, ciao Betta. Ciao Roberta, sì, beh, insomma è stato dato un bel servito, mi sembra, no? Ringraziamo, siamo tutti molto contenti del lavoro. È stato bello, eccetera, è stato bello, ci eravamo tanto amati, ecco. Però poi alla fine un po' i fratelli coltelli di questa, che sembra sempre più la balena rossa, tanto che ricorda un po' la DC con le varie correnti. Con la balena bianca, ma, sì. Matteo Renzi non ha indugiato, non si è fatto impietosire anche dal programma di rilancio lanciato in extremis da Letta ieri, e ha detto subito che serve un cambio di passo, altrimenti si rischia la palude. Non c'è rischio se non si mette in gioco lui stesso, e comunque la cosa principale è che si dovrebbe andare al voto. Un pochino ha detto le strade sono due, forse si sarebbe dovuto andare al voto, però non c'è la legge elettorale, ahimè, e allora si candida a Palazzo Chigi. La direzione del PD ha votato, malgrado quattro federissimi lettiani abbiano lasciato la votazione e quindi non abbiano votato, però gli altri hanno votato 136 sì Roberta e 16 no, due astenuti, insomma il partito è con lui, quindi il rottamatore è riuscito a rottamare tutto. Già, e non si è piegato anche alle logiche, no, correntizie che hanno sempre ucciso il PD. In questo ha mostrato un volto nuovo. Quello che invece purtroppo è molto vecchio è questo di cambiare premier ma non andare alle elezioni, quindi insomma alla fine sarà un grande rimpasso, nel senso che non è proprio un rimpasso perché il premier cambia il governo, sarà una crisi, però poi alla fine si prosegue in questa legislatura che, ricordiamo, è nata comunque male perché è nata con tre forze politiche uguali, no? E poi attraverso alleanze parlamentari, voti contro voti, anche Renzi avrà i suoi voti, ma sempre per un governo zoppo, Roberta. Perché ti dico questo? Perché Angelino Alfano oggi ha detto una cosa molto importante: loro non appoggeranno un governo politico, certo, di centrosinistra, sì, e sì, quindi si sta sempre nella stessa palude in cui stava Letta, e Civati l'ha detto, ma che cambia se cambia il premier, se non si va alle elezioni, i numeri a Montecitorio e a Palazzo Madama sono sempre quelli, perché cambiare? E Civati infatti ieri l'ha confermato qui Effetto Notte. Grazie Elisabetta Fiorito, grazie a voi del tuo racconto, della tua lettura. Allora proviamo a sentire, fra le tante cose che ha detto oggi Renzi, la sua voce. C'è un'ambizione smisurata che noi dobbiamo avere oggi, che è quello di pensare che l'Italia non può vivere per i prossimi mesi o per i prossimi anni in una situazione di incertezza, di instabilità, di palude, di tentennamenti. Io credo che siamo a un bivio. Se l'Italia chiede un cambiamento radicale, o questo cambiamento lo esprime il PD o non lo farà nessuno. Vi chiedo tutti insieme di uscire dalla palude. E sentiamo anche colei che aveva già espresso il suo appoggio a Renzi da diverso tempo, la segretaria di Scelta Civica Stefania Giannini. Non ha saputo o voluto o potuto fare come punto di partenza ciò che Scelta Civica chiede da 8 mesi, cioè partire con un programma articolato in cui le priorità siano condivise e si identifichi nell'orizzonte della legislatura quello che si andrà a fare. Quindi dopo la chiarezza adesso ci vogliono i temi e la condivisione dei temi. Questo ci aspettiamo, se sarà Renzi, come mi pare di capire, il candidato designato ad un futuro incarico. Questo, diciamo, è il nodo che sollevano molti critici, nel senso anche appunto Scelta Civica aperta da tempo a Renzi, cioè, però qui ci vuole un programma chiaro, ci dica che cosa intende fare. E c'è stato anche il commento di Romano Prodi oggi all'ambasciata francese, dov'è, per ricevere questa sera la Gran Croce della Legion d'Onore. Ha detto: servo, penso, ma non do giudizi, guardo dalla finestra, faccio gli auguri al paese che ne ha tanto bisogno, ma ricordiamoci che ci vuole un accordo con l'Unione Europea perché da soli non ce la facciamo. Nessuna reazione al momento invece da parte degli industriali. Il presidente Squinzi questa mattina a Torino per presentare un'importante iniziativa ha ribadito però che bisogna fornire risposte. Questa manifestazione non è contro un governo o a favore di un altro governo, questa manifestazione è una protesta contro una cultura anti-industriale, anti-impresa, ormai da qualche decennio purtroppo è diventata prevalente. Il leader di Confindustria, Giorgio Squinzi, avvalla così all'Unione Industriale di Torino la marcia dei 40.000 virtuale, una protesta sul web lanciata dagli imprenditori piemontesi per denunciare al governo l'impossibilità di fare impresa in Italia. E tra le proposte che Squinzi lancia di fronte a una platea di 600 persone, centrale è la richiesta di riforme, anche istituzionali, che vanno dalla riduzione del carico fiscale alla diminuzione della burocrazia, dall'innovazione al sostegno alla produttività. In una giornata decisiva dal punto di vista politico, Squinzi non si lascia andare a commenti sulla querelle Letta-Renzi, ma torna a ribadire il ruolo centrale delle imprese per far ripartire l'economia italiana. La politica non è compito nostro, noi siamo per far ripartire l'economia, per fare sì che le imprese trovino di nuovo la possibilità di crescere. Valentina Innocente, Radio 24, Sole 24 Ore, Torino. E passiamo adesso alla vicenda di Due Mare. Oggi in Parlamento c'è stata l'audizione della ministra degli Esteri dopo il no dell'ONU alla mediazione. Il segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon interverrà nei confronti delle autorità indiane per la vicenda dei due marò italiani Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. Emma Bonino lo annuncia riferendo in Senato dopo un colloquio con il numero uno del Palazzo di Vetro, che martedì aveva derubricato il caso a semplice questione bilaterale, escludendo una possibile mediazione da parte delle Nazioni Unite, una decisione di fronte alla quale il nostro ministro degli esteri ha espresso rammarico e perplessità. La reazione del segretario generale mi sembra lasci a desiderare, perché su questo punto specifico non si tratta più di una divergenza o di una disputa tra due membri delle Nazioni Unite, ma di una massa critica di Stati. L'applicazione della legge antiterrorismo nei confronti dei nostri marò preoccupa anche Unione Europea e NATO, che concordano con l'Italia sul fatto che la vicenda non sia più soltanto una questione bilaterale, perché riguarda anche il rispetto dei diritti umani, delle regole sulla navigazione e delle attività di pattugliamento contro la pirateria. Domani l'alto responsabile per gli esteri dell'UE, Catherine Ashton, incontrerà Ban Ki-moon e risolleverà il caso. Bonino ne parlerà invece a Ginevra con Navi Pillai, alto commissario dell'ONU per i diritti umani. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. C'è da dire che poi in serata da New York a correggere il tiro è arrivata la dichiarazione del portavoce del Palazzo di Vetro, Martin Sirki, che ha detto: il segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon è preoccupato per questa vicenda da tempo irrisolta e chiede che i due paesi trovino una mediazione. Adesso altra cosa che fa preoccupare è il maltempo, che però non riguarda noi. Da noi è attesa una primavera anticipata, mentre in Inghilterra è allarme rosso per appunto il maltempo, e negli Stati Uniti torna ad accanirsi il gelo polare. 13 vittime, quasi tutte in incidenti stradali, è il tragico e provvisorio bilancio della tempesta di neve e ghiaccio che si è abbattuta sugli Stati Uniti. La nuova ondata di maltempo ha colpito prima il sud del paese per poi imperversare sulla costa orientale. Forti nevicate stanno creando non pochi problemi a New York, Washington, Boston e Philadelphia. Almeno 800.000 le persone rimaste al buio a causa dei blackout. In tilt il traffico aereo, con oltre 7.000 voli cancellati in due giorni. Caos su gran parte delle strade, ma l'ingorgo più spaventoso è quello che si è creato su un'autostrada nel North Carolina, con migliaia di persone bloccate e centinaia di auto abbandonate in mezzo alle carreggiate. Il presidente Barack Obama ha dichiarato lo stato di calamità naturale in Georgia e in South Carolina, inviando gli aiuti federali. Intanto in Florida è stato lanciato un allarme tornado. L'afflusso di aria fredda potrebbe infatti scatenare forti venti che potrebbero assumere le caratteristiche di veri e propri uragani. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ancora all'estero, nel giorno in cui il Parlamento belga ha approvato con 86 sì, 44 no, 12 astenuti la legge che estende l'eutanasia ai minori. In Olanda, mistero fitto sulla morte di una famosa ex ministra. Sotto il suo mandato, i Paesi Bassi divennero il primo paese al mondo a legalizzare l'eutanasia. È stata uccisa, anche se per il momento non è chiaro come e perché, l'ex ministro della sanità olandese Els Borst, promotrice della prima legge al mondo sull'eutanasia. Ne è convinta la procura sulle basi delle analisi mediche sul corpo ritrovato da un amico lunedì sera nel garage della donna Beethoven, vicino a Utrecht. Le ferite non derivano da una caduta provocata da un malore. La morte è dovuta ad azione criminale, ha fatto sapere la procura. Els Borst aveva 81 anni ed era stata ministro della sanità e vicepremier dei Paesi Bassi dal 1994 al 2002. Proprio quell'anno era stata approvata la legge che permette l'eutanasia su richiesta di un malato terminale e con l'assenso di almeno due medici se la sofferenza è insopportabile e non c'è possibilità di recupero. Paolo Panceri, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per chiudere le Olimpiadi di Sochi è arrivata una medaglia per l'Italia, che all'inizio sembrava sfumare, invece poi alla fine è stata riconosciuta. È vero, Maria Pia Vals Beltran in diretta da Sochi? Ciao Maria Pia. Sì, buonasera a tutti. Effettivamente anche noi personalmente ci trovavamo proprio all'Iceberg Palace, dove Arianna Fontana è diventata campionessa d'argento per quanto riguarda i 500 metri femminili, e la prima impressione era proprio quella che fosse medaglia di bronzo, perché è arrivata terza dopo una rocambolesca gara in cui sono cadute lei, l'inglese Christie e anche la coreana Park, ed è stata vinta la gara proprio da una cinese lì, che è andata a vincere nonostante si sia qualificata alle Olimpiadi solo perché la sua compagna, la fortissima Meng, ha avuto un infortunio, quindi un po' la, diciamo, il riscatto della Cenerentola che va poi a vincere i 500 finali. Tornando ad Arianna, per lei oggi poteva essere oro, perché è in gran forma, l'abbiamo vista poco fa proprio al termine della cerimonia delle medaglie, e sta bene sia fisicamente che mentalmente. Ha altre prove davanti a sé, perché c'è già la finale della staffetta femminile in cui le ragazze italiane possono fare bene, ha ancora i 1500 500 mille metri, che sono due delle sue discipline preferite, per cui comunque potrebbe darci altre soddisfazioni. Tra l'altro lei è emozionatissima perché domani, come sapete, è San Valentino, il suo fidanzato futuro marito, perché a maggio convoleranno a nozze, è proprio Anthony Lobello, che è anche lui nella squadra olimpica di short track, quindi diciamo un bel racconto d'amore proprio a poche ore dalla festa degli innamorati. Ma è Lobello veramente? Maria Pia? È lo bello. Va bene, se lo dici tu mi fido. Grazie Maria Pia Valso Beltrano da Sochi. Ciao, noi invece poi parleremo invece di questa gara che c'è stata, che pare vinta praticamente con uno dei due contendenti al tappeto. Parleremo di politica tra pochissimo, vedo già tantissimi messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, altri ai messaggi al 349-238-6666. Quindi giusto il tempo di sentire quali sono gli aggiornamenti per chi viaggia. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci qui, vi ricordo giusto i titoli principali, vi ho riassunto prima la giornata per passare poi al sodo, diciamo, nuovo governo, Letta cede e domani si dimette, Renzi quindi verso Palazzo Chigi con il via libera oggi del PD. Tra le reazioni, Forza Italia e 5 Stelle dicono la crisi si voti in Parlamento, Scelta Civica sia Renzi ha fatto chiarezza. Crisi, il presidente di Confindustria, Squinzi, dice c'è stato un pesante disagio per le imprese negli ultimi 5 anni, da Letta buone analisi ma non sono arrivate le risposte attese. Eutanasia, il Parlamento belga decide di estenderla ai minori. La vicenda dei Marò, il segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon chiede che India e Italia trovino un accordo per le Olimpiadi di Sochi, avete appena sentito la medaglia d'argento per Arianna Fontana nello short track. Quindi siamo arrivati a questo cambio di scenario. Stefano Folli, ciao. Ciao. Editorialista del Sole 24 Ore, spesso presente qui a Effetto Notte, al quale anche stasera chiediamo, in questa situazione così, come si può dire, dirompente, di darci un'interpretazione. Stefano, allora, Enrico Letta ha detto domani pomeriggio salirà al Quirinale per rimettere il mandato nelle mani di Giorgio Napolitano. Oggi è stato praticamente sfiduciato in pochi minuti, Renzi ha detto grazie tante, sei stato bravo e tutto quanto eccetera, però adesso ci vuole questo cambio di passo e insomma la stragrande maggioranza ha votato contro Letta, c'è stato il sì anche di Cuperlo, solo Civati e Civatiani hanno votato no, tranne la Puppato che è di Scelta Civica e Nuovo Centrodestra. Alfano ci ha tenuto a dire che era colpa del PD questa crisi e Forza Italia e Movimento 5 Stelle chiedono che la crisi venga portata in Parlamento. Insomma, la situazione veramente molto molto articolata, Stefano. Comunque fatto sta che il rottamatore, il grande rottamatore, è riuscito a rottamare anche Letta. Sì. Buona sintesi perfetta. Ma sai, certamente ci sono problemi, figuriamoci, il cambio avviene lasciando molte perplessità, molti interrogativi, però se la domanda è come finisce questa partita, è chiaro che è già finita in un certo senso, perché Renzi ha dimostrato di avere un controllo totale del suo partito, nessuno ne dubitava, però insomma, è riuscito anche a evitare che ci fossero lacerazioni, scontri a calore bianco, ha aperto e chiuso la vicenda e il PD lo ha seguito completamente. Adesso ci sarà da negoziare parecchie cose per fare il governo, ma è chiaro che avremo entro pochi giorni un governo Renzi, con un impianto che è quello del governo Letta, però l'impianto è quello, non cambia, e quindi si porterà dietro anche alcune contraddizioni, e insomma i problemi non mancheranno. Se posso dire, la cosa che mi ha più colpito, ma insomma, me l'aspettavo, ne avevo anche scritto ieri mattina, era che Renzi ha dovuto spiegare con chiarezza che l'orizzonte di questo suo governo sarà di legislatura, perché questo è un argomento che serve a dimostrare i limiti, diciamo, secondo lui, dal suo punto di vista di Letta, che invece aveva un orizzonte molto più limitato. Il governo di legislatura è un governo per fare le riforme, per fare interventi strutturali di grande respiro, no, ma non è un governicchio, ecco. Quindi si è dato questa ambizione, Letta, è un'ambizione molto alta, come logico che sia, altrimenti non si spiega il motivo per cui bisogna cambiare governo. Però adesso bisogna essere all'altezza di queste ambizioni e delle attese suscitate. Senti, vedevo, e appunto questo è la grande sfida di Renzi, no? Perché come stanno scrivendo diversi ascoltatori, qui se fallisce qualcuno dice forse bisogna rimpiangere Berlusconi, ma comunque anche la stampa internazionale ha titolato sui giornali online, adesso stavo guardando vari giornali, insomma, che plaudono, semplicemente mettono molto in rilievo nelle prime pagine questo cambio tra Letta e Renzi. C'è però il Financial Times, Stefano, che scrive: la pugnalata pubblica che Renzi ha inflitto a Letta potrebbe un giorno tornare a tormentarlo. Molto inquietante questa cosa. Dice, sottolinea, se questi sono i metodi che egli considera appropriati per spianarsi la strada verso il potere, è ragionevole pensare che essi prima o poi saranno usati contro di lui. Sembra una cosa profetica, ma abbastanza preoccupante. È chiaro che Enrico Letta aveva e ha delle ottime relazioni internazionali, e sul piano internazionale si è visto questa operazione con molta diffidenza. Un conto è criticare un governo per i suoi errori, per la mancanza di determinazione, di coraggio del suo programma di governo, della sua azione quotidiana, e un altro conto effettivamente è assistere a questa che aveva avuto tutte le caratteristiche del complotto di palazzo, senza eccepire. Gli inglesi hanno eccepito con questo articolo. Ripeto, sta a Renzi adesso dimostrare che non è stato soltanto un complotto di palazzo, cioè dimostrare che questa ambizione di fare un governone che è capace di affondare il bisturi nei guai italiani, nei propri italiani, come non è mai stato fatto prima in passato, che è un po' questo il disegno di Renzi, no? E questa ambizione avrà una qualche probabilità di realizzarsi, perché altrimenti l'immagine dell'innovatore, di questo uomo super dinamico che arriva a fronte ai problemi con la velocità della luce, tutto questo rischia però di appannarsi rapidamente se non ci sono dei risultati. E tra l'altro, questo appunto era comunque la previsione del Financial Times, ma invece arrivano addirittura le congratulazioni a Renzi, Stefano Folli, arrivano da, non mi ricordo come si chiama, ecco, Mitch Stewart, che è l'esperto obamiano delle campagne elettorali, che aveva anche curato la campagna elettorale di Obama, e ha scritto subito congratulazioni, un tweet: congratulazioni Matteo Renzo, è bello avere un leader che ne capisce di organizzazione, anche se naturalmente la politica non è solo organizzazione, insomma, avrà voluto dire un po' di cose insieme. E poi c'è il viceministro De Luca, che sappiamo molto vicino a Renzi, che dice: spieghiamo, aveva detto oggi la direzione del PD, che non stiamo facendo alcuna staffetta, ma stiamo cambiando il nostro atteggiamento politico. Non ce la faremo a spiegare tutto con le parole, ma dobbiamo farlo con i fatti e con una svolta di sostanza che sia percepibile dal paese. Dice: questa è la nostra sfida. È quello che abbiamo detto anche noi adesso, esattamente questo. Senti, invece, secondo te Napolitano, che finora, insomma, è un po' una sua creatura, vogliamo dire, Letta, come Presidente del Consiglio naturalmente, non come figura politica, che tipo di, forse ha un po' lasciato, un po' allentato le redini? No, era una questione interna al partito di maggioranza relativa, ma non è mica che succede solo da noi, succede in tanti paesi. Il partito di maggioranza esprime il leader del governo, il capo del governo. Se per una qualunque ragione il capo del governo deve essere cambiato, per ragioni politiche diciamo, è il partito che deve decidere il da farsi. Questo è accaduto in Inghilterra al tempo della Thatcher, e non so se il Financial Times allora abbia scritto che John Major aveva pugnalato Margaret Thatcher e che gli sarebbe tornata questa pugnalata, questo non, francamente non me lo ricordo. È successo poi con il cambio tra Blair e Gordon Brown, quindi sono cose che succedono, poi si possono fare con maggiore e minore eleganza, ammetto che noi l'abbiamo fatta con poca eleganza. Però questo è un fatto che non ha niente a che vedere con il capo dello Stato, appartiene alla dialettica dei partiti. Poi il capo dello Stato inizia il suo ruolo domani, quando Letta gli presenterà le dimissioni e ci saranno poi i vari passaggi costituzionalmente previsti per arrivare in tempi sicuramente brevi alla nascita del nuovo governo. Leggo qualche messaggio. Renzi è uno sbruffone senza vergogna, non mi fido. Nazareno da Roma, Nazareno poi è proprio il nome della sede del PD particolare questa. Renzi, dice un altro ascoltatore o ascoltatrice, sarà l'ultima possibilità per l'Italia e tutta la politica dovrà togliersi la maschera. Per un altro Renzi sarà l'antigrillo. E poi un altro messaggio: il sindaco segretario premier vuole risollevare il paese con la stessa maggioranza, che è quello che ci stiamo chiedendo un po' in questi giorni, no? Anche perché il nuovo centrodestra non ce n'è un'altra di maggioranza. Fano ha già posto le sue condizioni, ha già detto una serie di cose, dice qui se non c'è spazio per noi, per le nostre istanze, noi non molliamo. Questi fanno parte dei giochi che accompagnano le trattative di solito per fare i governi, però un'altra maggioranza a disposizione non c'è, mi pare, no? A meno che di non andarla a cercare fra i grillini, dove ben sappiamo che in passato già un'altra personalità, Bersani, ha consumato le sue energie inutilmente. Sarò complottista, dice l'altro ascoltatore, ma secondo me Renzi lo fa perché ha l'appoggio non esplicito sicuramente di Berlusconi, ne avranno parlato nella stesura dell'Italicum. Non c'entra niente, sono cose diverse. No, è vero quello che scriveva l'altro ascoltatore, che Renzi è un po' l'antigrillo, questo è vero. Renzi si pone l'obiettivo di riassorbire molti dei voti, non tutti no, ma sono molti dei voti che sono andati a ingrossare le file del Movimento 5 Stelle, non c'è dubbio, e infatti prevedo che tra lui e Grillo ci sarà una contesa molto dura, molto aspra, già a cominciare adesso dalla campagna per le elezioni europee, questo è vero. No, altri scenari che sono descritti mi sembrano meno verosimili, certamente la storia di Berlusconi non c'entra. Il problema di Renzi è che adesso ci sono due maggioranze, c'è una maggioranza, quella che sosterrà il governo, di cui lui è il riferimento, e poi c'è una maggioranza parlamentare, una convergenza parlamentare fra lui e Berlusconi sulle riforme. Questa era quella che era stata sottoscritta poche settimane fa. Come convivono queste due maggioranze? Questo è un bel problema da definire, perché riescono a convivere, lui riuscirà a mandare avanti il progetto delle riforme costituzionali e della legge elettorale sulla base di quel patto che era stato fatto qualche settimana fa, oppure questo scenario completamente cambiato finisce per condizionare anche il percorso delle riforme? Questa è la domanda da porsi. Secondo me il percorso delle riforme non sarà facilissimo. Bene, Stefano Folli, piuttosto pessimista, ma insomma no, anche oggettivo, no, oggettivo, insomma, non realistico, neanche, non neanche... è certo, chi tira da una parte, chi tira dall'altra, vedremo come sarà possibile. Non vuol dire che sarà un tappeto di fiori, non credo. Certo, con questa doppia maggioranza che indicavi, no? Sarà effettivamente complicato. Grazie Stefano Folli, ciao, a presto. Ciao. Ciao Stefano. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, Roberto Giordano sempre con voi, a vostra disposizione c'è anche sempre la pagina Facebook Effetto Notte oppure la pagina dei messaggi, degli sms, tra poco ne leggo ancora, ma vi ricordo prima del prossimo ospite quali sono stati i fatti principali di oggi. Naturalmente Sava Sandire, crisi di governo, Letta si dimette domani al Quirinale, la direzione di PD dice grazie Enrico, ora Renzi a Palazzo Chigi. Tra le reazioni Forza Italia 5 Stelle che chiedono che la crisi si voti in Parlamento, mentre Scelta Civica dice sì a Renzi, ha fatto chiarezza, adesso aspetta il programma. Crisi, presidente di Confindustria Squinzi dice che c'è stato un pesante disagio delle imprese da più di 5 anni e Letta ha fatto una buona analisi ma non è riuscito a dare le risposte attese. Per l'eutanasia il Parlamento belga decide di estenderla anche ai minori. E l'Olimpiade di Sochi, Arianna Fontana ha conquistato la medaglia d'argento nello short track. E saluto e ringrazio di essere qui in questa giornata di passaggi epocali, possiamo dire, sicuramente giornata convulsa. Davide Faraone, buonasera. Buonasera a voi. Onorevole del PD, responsabile del welfare per il PD. Insomma, ce l'avete fatta, Faraone? Insomma. Diciamo che il passaggio è stato un passaggio, diciamo, traumatico, un po' pesante, però ci sta. Sicuramente avremmo... Non so in sentito. Però ci sta, ci sento il vento, lei, il vento della politica in questo momento, cos'è, Faraone, questo vento che sento? No, il vento di Roma. Ah, di Roma, c'è il vento di Roma. Senta, dicevo, traumatico come aggettivo ci sta abbastanza, nel senso lo avete un po'... Traumatico, però anche inevitabile, nel senso che... Noi pensavamo che si potesse realizzare un percorso di ingresso a Palazzo Chigi tramite un percorso più lineare che fosse legato al consenso dei cittadini e ad elezioni. Tuttavia si è reso inevitabile questa scelta fatta oggi dalla direzione del PD, perché si rischiava di inquinare il processo delle riforme con una instabilità che nel governo ormai si stava generando ormai quotidianamente. Però non dice traumatico, quindi ammette che insomma è stato un po' buttato giù dalla barca, Letta, diciamo, no? È un po' la sintesi, però le dice era necessario, ormai c'era instabilità, bisogna andare avanti con le riforme. Non io le sembra? Direi che più che essere stato buttato dalla barca, Letta è stato un ottimo Presidente del Consiglio per una fase, e cioè in cui è necessario un governo di servizio. Mm. Oggi c'è bisogno di un governo che smetta i panni, tra virgolette, del governo tecnico e diventi un governo politico e che abbia una prospettiva di più lunga durata e che abbia anche la volontà di correre rispetto alle riforme che sono necessarie per il Paese. C'è Alessandro da Milano, per leggere ogni tanto qualche messaggio che sta arrivando, dice: purtroppo Letta non riesce a governare, non si è dimesso per Renzi ma per la sua incapacità. Questo, diciamo, è un renziano, anche se devo dire, Davide Faraone, sulla pagina Facebook ufficiale del PD, anche i twittanti verso il PD, mi sembra a livello di base elettorale che non siano, almeno prima che ci fosse la direzione oggi in giornata, ieri, non fossero molto contenti per la gran parte di questo passaggio così senza le elezioni, no? Il passaggio non è per nulla semplice, è dire che c'è un consenso enorme a questo percorso vorrebbe dire una cosa che non è vera. Il problema però lì è uno: noi stiamo decidendo di metterci la faccia per la seconda volta, la prima volta quando abbiamo deciso di parlare con Berlusconi, di farlo venire al Nazareno a discutere di riforme perché era utile per il Paese. Oggi stiamo facendo la stessa scelta, chiedendo al segretario del PD, qualora questa scelta dovesse essere ratificata dal Presidente della Repubblica, di metterci la faccia per un'altra volta. È chiaro che quando fai queste scelte rischi nel breve periodo un po' il logoramento. In prospettiva, queste stesse persone che oggi magari criticano, se il governo fa bene, saranno lì a tifare per noi. Mm. Faraone, però ci sono poi i problemi dell'alleanza, appunto. Per esempio, oggi i popolari e l'UDC hanno detto: il PD può cambiare il presidente del Consiglio, ma non la natura del governo. Non si può passare da un governo di intese con la sinistra a un governo di sinistra. Che tipo di governo sarà il vostro, Faraone? Ma sicuramente, intanto noi partiamo dalle forze politiche che hanno sostenuto Letta in Parlamento, poi se riusciremo a allargarlo con quelle forze politiche o con dei singoli parlamentari saremo contenti di averlo fatto. Dopodiché è chiaro che questo, quando e se dovesse essere chiamato alla guida di questo governo Matteo Renzi, conoscendo Matteo Renzi nessuno si può aspettare un governo né di galleggiamento, né un governo tecnico, né un governo di servizio. Già quella Presidenza del Consiglio sa tanto di politica. E lei però dice, giustamente, deve fare ora, ci sarà la stessa maggioranza, non faremo grandi cambiamenti, però poi allora qui si prospetta quelli che molti definiscono il vulnus di questo eventuale prossimo governo di Renzi, cioè se ha la stessa maggioranza perché dovrebbe ottenere risultati diversi da quelli che non è riuscito a ottenere Letta? Anche perché c'è... Sì, prego. Io credo che la differenza sostanzialmente sta nel aver avviato seriamente il percorso delle riforme istituzionali e della legge elettorale e essersi accorti che purtroppo i binari delle riforme istituzionali e il binario del governo quotidiano e delle riforme economiche e sociali non sono binari che possono camminare separatamente, ma purtroppo si debbono sovrapporre. E uno, se un binario funzionava male, inficiava anche l'altro. Per cui oggi è invece necessario mettere in campo un percorso che sovrapponga da un lato i due binari e ne faccia uno soltanto, e dall'altro lato che dette un'agenda al governo che sia la stessa del PD, perché si rischiavano due agende diverse, due binari, una per le riforme e una per il governo. Aver semplificato tutto questo, aver responsabilizzato una sola persona, credo che sia un elemento di chiarezza. Anche se, Davide Farone, adesso le dico già le condizioni che pone Alfano, leader del nuovo centrodestra. Sentiamolo un attimo. Noi siamo indisponibili ad aderire ad un governo politico che abbia un connotato di sinistra e siamo altrettanto indisponibili ad aderire ad un governo politico che si chiami di centrosinistra, perché noi siamo il centrodestra, siamo il nuovo centrodestra, faremo valere in qualunque governo le istanze del centrodestra e se ci renderemo conto che non ci sono o non ci saranno le condizioni politiche per far valere le nostre istanze, le istanze di quegli artigiani, dei commercianti, di quel grande ceto medio italiano che sta soffrendo per la crisi e che si sta sempre più assottigliando, bene, se noi non potremo essere gli avvocati dentro il governo del grande ceto medio italiano, noi diremo no alla nascita del nuovo governo. O si fanno grandi cose o per fare piccole cose è meglio andare al voto. Lo dico con chiarezza a Matteo Renzi, lui ha posto due ipotesi: o un governo con una grande ambizione o il voto subito. Noi siamo pronti a entrambe le ipotesi, siamo pronti ad andare al voto perché siamo forti dei sondaggi che ci rendono capaci di superare ogni sbarramento e siamo forti della possibilità di riorganizzare una coalizione di centrodestra che si candida a vincere avendo in noi l'elemento determinante. Renzi avvisato, uomo che dice Faraone, ha sentito bene quali sono le condizioni con molta fermezza enunciate da Alfano? Ma a me sembrava più che lui si cercava di darci forza, più che quella Matteo Renzi, nel senso che io credo che questo governo di per sé stesso, quando impegna direttamente il segretario nazionale del PD e quando impegna una personalità come Renzi, è oggettivamente un governo che ha una grande ambizione. Il tema poi è capire se poi questa ambizione sarà sostanzialmente rispettata nei fatti e nella concretezza del giorno per giorno. Questo dipenderà anche dall'azione dei ministri e delle forze politiche che lo sostengono. Noi abbiamo voglia di fare bene, altrimenti figuriamoci se avessimo mandato il segretario nazionale del PD e l'avessimo esposto a questo rischio così grande, se avessimo obiettivi minimi. Due domande velocissime per chiudere, Davide Farone. Movimento 5 Stelle, Forza Italia, dicono si è trattato di una crisi tutta extraparlamentare. Questa parlamentare è oggettivo, nel senso che non si è sviluppato in Parlamento. È chiaro che però avrà una parlamentarizzazione nel momento in cui il Presidente della Repubblica dovesse, a seguito delle dimissioni del Presidente del Consiglio Letta, dare incarico a un nuovo Presidente del Consiglio. In quel caso si parlamentarizzerà immediatamente, si discuterà lì il programma di governo e si voterà su quel programma e sulla squadra che si metterà in campo. Per cui un po' mi sembra una polemica un po' ridicola, sostanzialmente. Senta, poi ci sentiremo se lei vorrà, Faraone, per capire bene qual è la base programmatica, perché molti dicono sì, va bene, però ancora diciamo un programma chiaro di Renzi non ce l'abbiamo in mente, no? Magari ci ma noi un programma l'abbiamo fatto qualche settimana fa quando abbiamo vinto le primarie del PD dicendo delle cose chiare. Dopo le primarie del PD le abbiamo continuato a dire, abbiamo lanciato una cornice del Job Act, il programma sul lavoro, un'agenda di governo seria e concreta, dopodiché andrà sicuramente affinata, poi andrà confrontata con le altre forze politiche che sosterranno il governo, però dire che non c'è la base programmatica vuol dire una fesseria. Al tempo stesso c'è tutto il percorso delle riforme, anche lì c'è una legge elettorale incardinata, delle riforme istituzionali delineate, si tratta poi di entrare nei dettagli, ma sostanzialmente il programma c'è. Onorevole Faraone, è un programma molto ambizioso e molto riformista. Bene, ci fa piacere. Onorevole Faraone, proprio l'ultima domanda. Sì. A proposito del Toto Ministri, lei me ne dice uno solo, un nome sicuro? Ma se lei vuole delle bugie, io le posso dire anche 10. No. Se lei vuole che io le dica la verità è che in questo momento di nomi di ministri non se ne è proprio parlato. Ma vabbè, top secret, ho capito, non insisto. Farone, la ringrazio intanto fino adesso. Grazie, buon lavoro. Grazie, arrivederci, buonanotte. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Prima di passare al prossimo tema, leggo alcuni dei vostri tanti messaggi. Marco che dice: mi pare tutta una grande pagliacciata, Letta fino a qualche minuto prima giura che non si dimetterà mai e poi capitola in pochi secondi. Ma Renzi che programma hai? L'ho chiesto prima a Farone, dice: è un programma ambizioso. Arturo: fanno tutto loro, fanno il governo, fanno l'opposizione, si autoeleggono, si spartiscono le poltrone. Poi Giuseppe manda un link con lo Zen e la via della spada, visto che ieri Letta ha detto che era assolutamente Zen e poteva insegnarlo anche ai monaci. Nicola: ma questi si leggono tra di loro il nostro voto al vento. Marco: le staffette non sono mai state fortunate. Andrea: deluso e incavolato con me stesso per aver creduto che Renzi fosse il nostro futuro, tra un anno sarà già sparito. Alex: non risolveremo niente, non approvo questo che sta succedendo e purtroppo questi politici non mi rappresentano assolutamente. Domenico: fossi in Letta parlamentarizzerei la crisi e poi, dopo essere appunto stato coltellato a tradimento, manderei tutti a spiegare. John: credo che sia tutto calcolato, non sarà un nuovo governo ma una nuova maggioranza, un PD SEL, Scelta Civica e grillini dissidenti. Un po' complicato. William: era necessario, non bastava dire al presidente in carica di ottemperare i progetti del partito, forse dicono che ne hanno aspettato tanto. Giuseppe: è solo una bella scenografia, pochi fatti. Floriano: non so cosa succederà, solo che questo non è il momento di barcamenare. Gianfranco: alla fine si brucerà anche Renzi, non ci rimarrà che Berlusconi. Renzo: da un certo punto di vista no, dice, si tratta di passaggi che sono totalmente fuori dalla democrazia e dalla libera espressione della volontà dei cittadini. Il terzo governo consecutivo non eletto. Massimo scrive: credo che sia che per più tempo si tengono gli italiani lontano dalle urne, meglio è. Bianca invece dice: Renzi assopiglia tutto. Mario: dopo 9 mesi nessun parto, quindi meglio così. E Massimo dice: la segreteria è così diversa dagli eletti in Parlamento, vedrai, lo capirà anche Renzi. Adesso invece passiamo all'Europa. Europa 24 notte. Verso le europee. Con Enrico Brivio, grande esperto, per anni corrispondente da Bruxelles. Ciao Enrico. Ciao. Caro Enrico. Buonasera agli ascoltatori. C'è stato, a proposito del Parlamento, invece quello europeo, un durissimo attacco, un atto d'accusa, un rapporto approvato oggi a larghissima maggioranza dalla Commissione Lavoro Affari Sociali del Parlamento Europeo sulle attività della Troica, cioè Banca Centrale Europea, Fondo Monetario Internazionale, Unione Europea. Il relatore, che è il socialista spagnolo Alejandro Cercas, in una conferenza stampa ha definito urgentissimo un piano per il lavoro finanziato con lo 0,5% del PIL, dice, quando per le banche è stato usato il 7%. Si riferisce soprattutto alla Grecia, il dato preoccupante è il 28% di disoccupazione, Enrico. Sì, non c'è dubbio che questo dato sulla disoccupazione greca, 28%, oltre il 61% di quella giovanile, cioè significa che più di un giovane su due è disoccupato in Grecia, dimostra quanto abbia pesato, quanto abbia colpito questo paese la politica di austerità. E quindi l'atto della Commissione dell'Europarlamento è un atto di condanna della Troica, che ha in qualche modo avallato, anzi imposto alla Grecia di adottare queste pratiche di queste politiche di austerità. Va detto, insomma, che prima di questo periodo in Grecia la Grecia viveva una situazione troppo allegra di finanze pubbliche che andava in qualche modo riformata, però appunto l'accusa è che la troica di queste tre istituzioni europee abbia imposto delle medicine troppo drastiche che rischiano di aver ammazzato il cavallo greco dell'economia greca, insomma. Va detto che Alejandro Cercas è un socialista di questa commissione dell'Europarlamento, forse anche l'Europarlamento poteva far sentire un po' prima la sua voce, non già solo adesso sotto all'inizio della campagna elettorale per le europee, e anche la Commissione europea con Barroso e con Olli Rehn ha le sue responsabilità, per cui insomma è una responsabilità condivisa, che va condivisa un po' tra tutte, certo, le istituzioni europee. Grazie Enrico Brivio. Grazie a voi. Grazie, a presto. Ciao Enrico. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. A proposito di malcontento, invece chiamo in causa Alberto Urioli. Ciao Alberto. Buonasera a tutti. Vice direttore del Sole 24 Ore, non perché sia malcontenta di avere Alberto, tutt'altro, ma perché si sono fatti sentire oggi a Torino gli industriali, rappresenta anche Squinzi, no? Era un'iniziativa che diceva non c'è ripresa senza impresa, Alberto. Sì, esatto, questo è uno slogan con il quale gli industriali da Torino hanno rilanciato una sorta di marcia virtuale dei 40.000. La marcia dei 40.000 negli anni 80 cambiò la storia delle relazioni sindacali e la storia economica del nostro paese, perché all'improvviso e inaspettatamente un gruppo di quadri e di lavoratori interruppe una stagione quasi decennale di scioperi selvaggi e cambiò completamente il corso della storia industriale del nostro paese. Adesso da Torino è arrivato un allarme forte, un segnale di disagio drammatico, molto enfatizzato dal presidente della Confindustria e da tutte le associazioni territoriali del nord-ovest, che hanno rimesso in fila, diciamo così, i temi che sono l'oggetto poi delle richieste che l'industria fa da almeno un anno al governo per cambiare il passo delle questioni che riguardano la politica economica e per creare le condizioni per rilanciare l'economia e creare sviluppo, per far ripartire il paese. Naturalmente la prima, la madre di tutte le questioni, è quella del taglio al cuneo fiscale che impedisce la competitività delle imprese e non consente agli stipendi netti dei lavoratori di aumentare in modo per consentire poi al paese di avere un maggior flusso nei consumi interni, perché l'Italia è malata da una glaciazione della domanda interna. Sostanzialmente gli italiani non stanno consumando e quindi le imprese non producono, quindi creano disoccupazione, c'è un problema di ammortizzatori sociali e le poche risorse che ci sono vanno a finire a curare il malato moribondo e agonizzante e non a creare sviluppo. Grazie Alberto Urioli, grazie. Questo, insomma, speriamo che il governo Renzi colga la palla al balzo e ascolti queste richieste, che mi sembrano, queste istanze quantomeno comprensibili e legittime. Grazie Alberto Urioli. Adesso invece voi sapete che oggi è stata la giornata mondiale della radio indetta dall'UNESCO e cade proprio oggi 13 febbraio e quest'anno è dedicata alle donne. Allora vi faccio sentire questo medley. Roberta Pellegatta, Radio 24, il Sole 24 Ore. E l'occasione per questa sua presenza. Benvenuti da Anna Marino a Voci di Pico. Come era prevedibile, apertura in rialzo per... Su Letta Bis sono ormai pochi a scommettere. Appena Papa Benedetto fu eletto. Quella di oggi è una storia a due voci che racconta... Grazie Vincenzo, sollecitano decisioni... Ma una sola per ora, per la prima volta nella storia... È stata una rivoluzione, anche perché per la prima volta... Maria Piera Ceci, Radio 24, il Sole 24 Ore. Gli industriali chiedono risposte dal governo. Per la kermesse inaugurale di 3 giorni, 25. Potrebbe servire, Fausto, visto che abbiamo ancora un minuto. Mi trovate anche su Twitter, @valfurla, e trovate le ricette sulla pagina del Questa programma. Cosa che ha descritto, dice, non la voglio chiamare solitudine ma isolamento. E quelli che con gli abiti della festa addosso ormai sorridono. Il commento di Bolagno era stato espresso. Parliamo di comfort food, restate con noi. Avete sentito un putpurri di voci femminili di Radio 24, insomma. Ne voglio parlare con Sergio Natucci. Ciao Sergio. Ciao, buonasera. Io sono un po' a disagio perché la mia non è una voce femminile. Ma puoi sforzarti, se vuoi, un po' di assomigliare. Già abbiamo l'influenza, quindi già quella è mettermi guai. Sergio Natucci, abbiamo questo tempo, direttore operativo di DAB Italia, per spiegare che cos'è questo DAB. È una rivoluzione che riguarda la radio, no? Ci dici che cos'è? Certo, prima di tutto... chiamiamola digital radio, come la si chiama in tutta Europa, che è un modo più semplice, più istintivo e più diretto. È una forma digitale di trasmettere le nostre informazioni, servizi, giornale radio, tutto quello che dalla mattina alla sera si fa alla radio e si fa a Radio 24. È già il presente, quindi? Assolutamente sì, in Italia copriamo già il 65% del territorio e soprattutto le grandi linee di collegamento, le grandi autostrade, i raccordi, diciamo le vie di comunicazione più importanti. Ci sono due operatori privati, uno di questi è una società che si chiama Club DAB Italia, a cui partecipa anche Radio 24. Senti, per cosa significa in questi 30 secondi che il suono è tutta un'altra cosa? Il suono è tutta un'altra cosa, ma non solo il suono, perché non ci sono interferenze, non ci sono disturbi di altri emittenti, le frequenze sono pianificate, la qualità è veramente straordinaria e dà quindi la possibilità alla radio di una seconda, terza, decidete voi quale, giovinezza rispetto a tutti gli altri mezzi. Del resto la radio è l'unico ancora non digitale e questa era l'opportunità per fare il balzo verso il mondo in cui viviamo. Mille vite alla radio, grazie Sergio Natucci, grazie, buona continuazione. Viva la radio. Intanto qui ci fermiamo, poi ritorno giusto per ricordarvi le notizie principali.